sentimento come tua chi tiene mente cascetato fai sunna. Guarda qua chi sto giardino siente si esti sciurarance lo profumo a così fino in tuo core se ne va. Tu dici parto addio, da lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore. Tieni o cuore non tornar, ma non me la sa. Sto dormiendo, torna sorrento, fammi campare. Tu dici parto addio, da lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore. Tieni o cuore non tornar, ma non me la sa. Dormiendo.